sono stato acceso, infatti mi stavo per allontanare perché tra poco sono verso meno 4, vado un po' a situazione fuori, sono passeggiato, ma ero tutta la sera qua al computer. No, io invece stamattina ero da un ufficio all'altro. Guarda, oggi questa volta mi hanno fatto disperare, sia per il settembre sia per tutto il resto. Vabbè, comunque sono andato anche a, come si chiama, a Piandana, sono andato all'INAIL, sono andato al CAF, insomma stavolta sono andato per gli uffici. Niente, non è cavato un ragno dal buco. Cosa? Non è cavato un ragno dal buco, come si suol dire. No, ho fatto tutto quanto. No, grazie a Dio sono riuscito a fare tutto. Sono partito presto, anzi sono arrivato troppo presto, sono arrivato alle 9:10, aprivano le 8:15, poi alle 8:30 aprivano gli uffici proprio, le 8:15 per aspettare, sono aspetto. No, io ho dato tutto al CAF, Savangi, non tanto per... non c'ho niente, quindi cosa... in Siria non dovrei neanche farlo, la faccio giusto per l'otto per mesi. No, beh, io scarico fatture, rite, scontrini di farmacia, le fatture di stagio che faccio dal veterinario, insomma, un po' di roba c'è da scaricare. Lo so, ma se non raggiungi credo le 200 o qualcosa, anche non ho niente, anche lì hanno tagliato, quindi più la fatica, il casino che altro, quindi ci ho rinunciato, ho sì gli scontrini, li rimetto, giusto, ma so già che non raggiunge la quota, non si danno tutto. E poi già la raggiungo perché faccio visite mediche, eccetera, quindi si può immaginare, già la raggiungo. Solo il bacino di testa da 40 euro, figurati. 40 euro il vaccino, poi ci sono tutte le altre cose, spese di farmacia, le medicine che compro, insomma tutto il resto. E quest'anno ho dovuto rinunciare al condominio perché mi hanno fatto un casino, mi hanno messo i nomi di miei figli anche insieme a me, cosa che non c'erano mai stati. Mi hanno messo i nomi di miei figli e mi hanno fatto casino, ho detto scusi, ma chi è che vi ha autorizzato a mettere i nomi di miei figli? Perché? Ma cosa perché? Perché cosa? Io sto pagando, cosa c'è tra i miei figli? Anche se io ne ho praticamente intestato la casa anche a loro, perché praticamente per non farmi pagare la tassa di successione, loro mi hanno messo in mezzo anche i miei figli, non avevano niente. Brecco? Ehi, è il possesso con me. È così, quindi è un casino. Ma è tutto un macello, guarda, per carità. Gira, secondo me così sui balconi ci andiamo noi per andare dall'altra parte. Davvero, mi c'è stato un break, avanti break. Meno male che ve ne abusate perché sono piccolino. Non è vero che sei piccolino, sei più forte di Gianfranco, figurati. Vabbè, andate lì. E te sei convenente. Mi sto facendo il backup del computer, sai che mi si incodia allora. Ciao Gianfra, buonasera. Ben sentito anche a te. A te le immagini che adesso sono più forte di te. Ci credo, io esco sempre basso, non è che. Non mi prendo neanche la prima volta l'antenna, guarda. E c'è un palo di messa, quasi a livello di alberi, tra l'altro, quindi vorrebbe almeno 5 metri più alta, ma non me ne fa, anche per la piccata, lì fa giù il tubo, di allungare, di risalire, già va bene così. Ok, avanti già. E chi c'è in rotta? Tu, Gianfranco? Gianni, ma... Cataluccia si è allontanato e così è nata lì, mi faceva basta, è tutto sbagliato, se tutto va rifatto. Se tutto va bene siamo rovinati. Ma di non facciamo si sentito. E evidentemente impegnato, o è salito su a Ossi per vedere la situazione lì, e quando ne torna sarà stanco, non si sa neanche se entra oggi. Ma speriamo che cambi idea e vada lì e piatti tutto decentemente. di apparecchi per far via. Gianni mi ha detto che c'è gente, dai, no problem. E speriamo a cambiare, sì, perché dopo a non sentirlo, brutto. Infatti, no, io me la farò parlare, devo fare il giro di ronda, quindi sentiamo più tardi se ci siete. E io che là già sono in ascolto, sto facendo il backup del computer intanto, là. Io devo fare riavvio anche del computer, perché col grosso aggiornamento chissà quanto ci sta. Va bene, a più tardi. Ciao, ciao Gianfranco.